Capitolo 4. Il giorno seguente Osvaldo e Corinna partirono con maggiore confidenza e serenità e si erano amici che viaggiavano insieme e cominciavano a dire noi. Ah, quanto è commovente il noi pronunciato dall'amore. Quale dichiarazione mai contiene timidamente e nello stesso tempo vivamente espressa. Noi andiamo dunque al Campidoglio, disse Corinna. Sì. Noi ci andiamo, rispose Osvaldo, e la sua voce diceva tutto con queste parole così semplici, tanto il suo accento era dolce e affettuoso. Dall'alto del Campidoglio, tale quale adesso, soggiunse Corinna, noi possiamo scorgere facilmente i sette colli, noi li percorreremo quindi tutti l'uno dopo l'altro, non ve n'è alcuno che non conservi delle tracce della storia. Corinna e Lord Nelville si incamminarono subito per la via, che si chiamava una volta la via sacra e la via trionfale. «Il vostro cocchio è passato di là», disse Osvaldo a Corinna. «Sì», ella rispose. «Quella polvere antica doveva stupirsi di essere calpestata da un tale cocchio, ma dopo la Repubblica Romana si sono incontrate su questo cammino tante vestigia colpevoli che il sentimento del rispetto che ispirava si è assai indebolito». Corinna si fece condurre ai piedi della scala del Campidoglio attuale. L'ingresso del Campidoglio antico era dal foro. «Io vorrei piuttosto», disse Corinna, «che questa scala fosse quella stessa che salì Scipione allorché, facendo tacere la calunnia con la gloria, andò nel tempo per ringraziare gli dèi delle vittorie che aveva riportato. Ma questa nuova scala, ma questo nuovo Campidoglio è stato edificato sulle rovine dell'antico per accogliere il pacifico magistrato che porta a sé solo il nome immenso di senatore romano. Oggetto una volta della riverenza dell'universo. Qui non abbiamo oramai più che dei nomi, ma la loro armonia, la loro antica dignità cagiona sempre una specie di scuotimento, una sensazione assai dolce, mischiata di piacere e di rammarico. Io domandavo l'altro giorno a una povera donna che incontrai dove stava di casa, alla Rupe Tarpeia, ella mi disse. E questa parola, benché spogliata delle idee che un di vi erano attaccate, opera ancora sull'immaginazione. Osvaldo e Corinna si fermarono per considerare i due leoni di basalto che si vedono ai piedi della scala del Campidoglio. Essi sono venuti dall'Egitto. Gli scultori egiziani colgono con assai più genio la faccia degli animali che quella degli uomini. Questi leoni del Campidoglio sono nobilmente mansueti e il loro genere di fisionomia è la vera immagine della tranquillità nella forza. Non lungi da questi leoni si vede una statua di Roma mutilata che i romani moderni hanno collocato là senza riflettere che essi davano pure il più perfetto emblema della loro Roma attuale. Questa statua non ha né testa né piedi, ma il corpo e il panneggiamento che rimangono ritengono tuttora delle bellezze antiche. Sull'alto della scala vi sono due colossi che rappresentano, per quanto si crede, Castore e Polluce, quindi i trofei di Mario, poi due colonne miliarie che servivano a misurare l'universo romano e la statua equestre di Marco Aurelio, bella e tranquilla in mezzo a queste diverse rimembranze. In tale guisa, là si trova tutto, i tempi eroici rappresentati dai Dioscuri, la Repubblica dai leoni, le guerre civili da Mario e i più bei tempi degli imperatori da Marco Aurelio. Nell'inoltrarsi verso il Campidoglio moderno si vedono a dritta e a sinistra due chiese fabbricate sulle rovine del tempio di Giove Feretrio e di Giove Capitolino. Avanti al vestibolo vi è una fontana sormontata da due fiumi, il Nilo e il Tevere, e la Lupa di Romolo. Non si pronuncia il nome del Tevere come quello dei fiumi senza gloria. È uno dei piaceri di Roma, il dire «conducetemi sulle rive del Tevere, traversiamo il Tevere». Sembra che pronunciando queste parole si evochi la storia e che si ravvivino i morti. Nell'andare al Campidoglio, dalla banda del Foro, si trovano a destra le carceri mamertine. Queste prigioni furono costruite dapprima da Anco Marzio e servivano allora per i rei ordinari, per i colpevoli ordinari, ma Servio Tullio ne fece scavare sottoterra altre più crudeli per i colpevoli contro lo Stato come se questi colpevoli non fossero quelli che meritano maggiore riguardo, nel riflesso che possono essere di buona fede nei loro errori. Giugurta e i complici di Catilina morirono in queste carceri. Si dice pure che San Pietro e San Paolo vi siano stati rinchiusi. Dall'altra parte del Campidoglio c'è la Rupe Tarpeia. Ai piedi di questa rupe si trova al presente un ospedale chiamato l'Ospedale della Consolazione. Sembra che lo spirito severo dell'antichità e la dolcezza del cristianesimo si siano riavvicinati in tale guisa in Roma attraverso i secoli e si manifestino ai nostri sguardi, come alle nostre considerazioni. Quando Osvaldo e Corinna furono giunti sul lato della torre del Campidoglio, Corinna mostrogli i sette colli. La città di Roma, ristretta prima del Monte Palatino, quindi limitata dalle mura di Servio Tullio che racchiudono questi sette colli, e in ultimo dalle mura di Aureliano che servono anche attualmente di recinto alla maggior parte di Roma. Corinna gli rammentò alcuni versi di Tibullo e di Properzio che vantano i deboli principi dai quali sorse la padrona del mondo, cioè la città di Roma. Il Monte Palatino fu esso solo tutta Roma per qualche tempo, ma in seguito il Palazzo degli Imperatori riempì lo spazio che era bastato per una nazione. Un poeta dei tempi di Nerone fece su tal proposito questo epigramma: Roma non sarà ben presto che un palazzo. Andatevene, romani, a Veio, seppur questo palazzo non occupi già anche Veio. I sette colli sono infinitamente meno elevati di quello che erano una volta quando meritavano il nome di Erti Monti. Roma moderna si è innalzata almeno 40 piedi sul livello di Roma antica. Le valli che separavano le colline si sono quasi ripiene nel decorrere dei tempi e per le rovine degli edifici. Ma ciò che è anche più singolare, un ammasso di vasi rotti ha dato l'esistenza a due nuovi colli: il Monte Citorio e il Monte Testaccio, il che è quasi un'immagine dei tempi moderni nei quali i progressi, o per dir meglio i rottami della civilizzazione, mettendo come a livello le montagne con le vallate, cancellano nel morale come nel fisico tutte le belle disuguaglianze prodotte dalla natura e che abbelliscono il suo aspetto. Tre altre colline, il Gianicolo, il Vaticano e il Monte Mario, non comprese nelle sette famose, danno alla città di Roma qualche cosa di così pittoresco che essa è forse la sola città che per sé medesima e nel suo proprio recinto offra i più magnifici punti di vista. Vi si trova un miscuglio così notevole di rovine, di fabbriche, di campagne e di deserti che si può contemplare Roma da tutte le bande e vedere sempre un quadro sorprendente nella prospettiva opposta. Osvaldo non sapeva saziarsi di considerare le vestigia dell'antica Roma dal punto elevato del Campidoglio, dove lo aveva condotto Corinna. La lettura della storia, le riflessioni che risveglia, agiscono assai meno sulla nostra anima di quelle pietre in disordine, di quei diroccamenti mescolati con le nuove abitazioni. Gli occhi sono potentissimi sull'anima. Dopo aver veduto le rovine romane, ci immaginiamo gli antichi romani come se fossimo vissuti nella loro età. Le memorie dello spirito si acquistano per mezzo dello studio. Le memorie dell'immaginazione nascono da impressione più immediata e più intima, che dà vita al pensiero e ci rende, per così dire, testimoni di ciò che noi abbiamo studiato. Ci si rendono indubitabilmente importuni tutti quegli edifici moderni che si accoppiano con le antiche reliquie. Il foro romano, il cui recinto è tanto ristretto e che ha veduto tante cose meravigliose, è una prova luminosa della grandezza morale dell'uomo. Quando l'universo negli ultimi tempi di Roma era soggetto a padroni senza gloria, si trovano dei secoli interi dei quali può consegnarsi nella storia appena qualche fatto, e questo foro, piccolo spazio, centro di città limitatissima, e i cui abitanti combattevano intorno ad essa per il suo distretto, questo foro non ha egli occupati per gli avvenimenti che ci rammemora i più bei geni di tutti i tempi? Sia dunque onore, eterno onore ai popoli coraggiosi e liberi, poiché si cattivano essi in tale modo gli sguardi della posterità. Corinna fece osservare a Lord Nelvil che si rinvenivano in Roma pochissimi avanzi dei tempi repubblicani, gli acquedotti, i canali sotterranei per lo scolo delle acque erano il solo lusso della Repubblica e dei re che l'hanno preceduta. Non ci rimane di quella che utili edifici, tombe innalzate alla memoria dei suoi grandi uomini e alcuni templi di mattoni che sussistono ancora. Fu solamente dopo la conquista della Sicilia che i romani fecero uso per la prima volta del marmo nei loro monumenti, ma basta vedere i luoghi dove accaddero grandi azioni per provare un'indefinibile commozione. A questa disposizione dell'anima si deve attribuire la possanza religiosa dei pellegrinaggi. I paesi celebri in ogni genere, anche quando sono spogliati dei loro uomini illustri e dei loro monumenti, esercitano molto potere sull'immaginazione. Ciò che colpiva lo sguardo non esiste più, ma vi è rimasta sempre l'attrattiva del ricordo. Non si vede altrimenti sul foro alcuna traccia di quella famosa tribuna dalla quale il popolo romano era governato dall'eloquenza. Vi si trovano bensì tuttora tre colonne di un tempio innalzato da Augusto in onore di Giove Tonante, allorché gli cadde il fulmine accanto senza offenderlo. Un arco che eresse il Senato a Settimio Severo, in premio delle sue segnalate imprese, i nomi dei suoi due figli, Caracalla e Geta, erano iscritti sul frontone dell'arco, ma allorché Caracalla ebbe assassinato Geta, fece togliere via il nome di questo, e vi si scorge ancora la traccia delle lettere scassate. Più lontano vi è un tempio dedicato a Faustina, monumento della cieca debolezza di Marco Aurelio, un tempio a Venere che nell'epoca repubblicana era consacrato a Pallade, e un poco più distante le rovine del tempio eretto al sole e alla luna e edificato dall'imperatore Adriano, che era geloso di Apollodoro, il famoso architetto greco, e che lo fece morire per aver biasimato le proporzioni del suo edificio. Dall'altra parte della piazza si vedono le rovine di alcuni monumenti consacrati a oggetti più nobili e a rimembranze più pure, le colonne di un tempio che si crede essere quello di Giove Statore, Giove che impediva ai romani di fuggire dinanzi ai loro nemici, una colonna avanzo di un tempio di Giove Custode, situata, si dice, non lontano dall'abisso in cui precipitò Curzio, delle colonne di un tempio innalzato, alcuni dicono alla Concordia, altri alla Vittoria. I popoli conquistatori confondono essi forse queste due idee e pensano che non può esistere vera pace se non quando hanno sottomesso l'universo? All'estremità del Monte Palatino si alza un bell'arco trionfale dedicato a Tito per la conquista di Gerusalemme. Si pretende che gli ebrei dimoranti in Roma non passino già mai sotto quell'arco. E si addita un piccolo cammino che prendono, per quanto si dice, per scansarlo. È da desiderarsi per l'onore degli ebrei che questo aneddoto sia vero, le lunghe ricordanze convengono alle lunghe sventure. Non lontana di là vi è l'arco di Costantino, abbellito di alcuni bassorilievi tolti dal foro di Traiano dai cristiani, che volevano decorare il monumento consacrato al fondatore del riposo. In tale modo fu appellato Costantino. Le arti in quell'epoca erano già nella loro decadenza e si spogliava il passato per onorare le nuove imprese. Le porte trionfali che si vedono tuttora in Roma perpetuavano, per quanto è possibile, agli uomini gli onori resi alla gloria. Vi era, sulla loro sommità, il posto destinato per i suonatori di flauti e di trombe perché il vincitore, nel suo passaggio, fosse inebriato nello stesso tempo dalla musica e dalla lode e gustasse in un medesimo istante tutte le più sublimi emozioni. In faccia a questi archi trionfali si vedono le rovine del Tempio della Pace edificato da Vespasiano. Esso era nel suo interno ornato talmente di bronzi e di oro che allorquando un incendio lo consumò, scorsero fino al foro le lave degli ardenti metalli. Finalmente il Colosseo, la più bella rovina di Roma, termina il nobile recinto dove compare tutta la storia. Questo superbo edificio, di cui sussistono ancora le sole pietre spogliate dell'oro e dei marmi, servì di arena ai gladiatori che combattevano contro le bestie feroci. In tal modo si sollazzava e si seduceva il popolo con forti emozioni quando i sentimenti naturali non potevano avere altrimenti il loro sfogo. Si entrava nel Colosseo per due porte, Una era consacrata ai vincitori e per l'altra si portavano via i morti. La sana vivaria e la sanda pilaria. Quale singolare dispregio per la specie umana destinare anticipatamente la morte o la vita dell'uomo al semplice passatempo di uno spettacolo. Tito, il migliore degli imperatori, dedicò questo Colosseo al popolo romano. Osvaldo non si lasciava trasportare dall'ammirazione che provava Corinna. Nel contemplare quelle quattro logge, quei quattro edifici che si alzano gli uni sopra gli altri, quel miscuglio di pompa e di vecchiezza che ispira simultaneamente il rispetto e la tenerezza, non scorgeva che il lusso del padrone e il sangue degli schiavi e si sentiva prevenuto contro le belle arti che non si curano del fine e profondono i loro doni su qualunque obietto o loro si destini. Corinna si provava a combattere questa sua disposizione. Non portate, ella disse a Lord Nelvil, il rigore dei vostri principi di morale e di giustizia nella contemplazione dei monumenti d'Italia. Essi rammentano, nella maggior parte, come vi ho detto, piuttosto lo splendore, l'eleganza e il gusto delle forme antiche che l'epoca gloriosa della virtù romana. Ma non trovate voi forse tracce della grandezza morale dei primi tempi nel lusso gigantesco dei monumenti che sono loro venuti dietro? Il degradamento medesimo del popolo romano è esso pure imponente. Il lutto della sua libertà copre il mondo di maraviglia e il genio delle bellezze ideali cerca di consolare l'uomo della dignità vera e reale che ha perduto. Vedete quei bagni immensi aperti a tutti quelli che volevano gustarne le voluttà orientali, quei circhi destinati agli elefanti che venivano a combattere con le tigri, quegli acquedotti che in un batter d'occhio facevano un lago di queste arene dove si vedevano lottare dopo delle galere i coccodrilli che comparivano nel sito dove poco prima si erano mostrati i leoni. Ecco quale fu il lusso dei romani quando collocarono nel lusso il loro orgoglio. Quegli obelischi trasportati dall'Egitto e involati alle arene africane per venire a decorare i sepolcri dei romani, quella popolazione di statue che esisteva una volta in Roma, non può essere considerata come l'inutile e fastosa pompa dei despoti dell'Asia. È il genio romano, vincitore del mondo, che le arti hanno rivestito di esteriore forma. Vi è dell'incantesimo in questa magnificenza e il suo splendore poetico fa obliare la sua origine e il suo scopo. L'eloquenza di Corinna eccitava l'ammirazione di Osvaldo senza persuaderlo. Egli cercava ovunque un sentimento morale e tutta la magia delle arti non poteva mai essergli sufficiente. Allora Corinna si ricordò che in questa stessa arena i cristiani perseguitati erano morti, vittime della loro perseveranza, e mostrando a Lord Nelvil gli altari innalzati in onore delle loro ceneri e la via della croce che calcano i penitenti al basso dei più magnifici avanzi della mondana grandezza, ella gli domandò se questa polvere dei martiri dicesse nulla al suo cuore. Oh sì, egli esclamò, io ammiro profondamente questa potenza dell'anima e della volontà a fronte dei dolori e della morte. Un sacrificio, qualunque sia, è più bello e più difficile di tutti gli slanci dell'anima e del pensiero. L'immaginazione riscaldata può produrre i miracoli del giorno, ma non siamo veramente virtuosi se non col sacrificarci alla propria opinione o ai propri sentimenti. Allora soltanto accade che una potenza celeste soggioghi in noi l'uomo mortale. Queste parole, nobili eppure, turbarono Corinna. Ella guardò Lord Nelvil e quindi abbassò gli occhi e benché in questo istante gli le prendesse la mano e se la stringesse al seno, ella fremette all'idea che un tale uomo potesse immolare gli altri o se stesso al culto di opinioni, di principi o di doveri che si fosse prescelto. Capitolo quinto. Dopo la passeggiata del Campidoglio e del Foro, Corinne e Lord Nelvil impiegarono 2 giornate per aggirarsi sui 7 colli. I romani facevano altre volte una festa in onore di quei 7 colli e una delle bellezze originali di Roma, l'essere racchiusi nel suo recinto, quei monti. E si capisce, senza fatica, come l'amore della patria si compiacesse di celebrare siffatta singolarità. Osvaldo e Corinna, avendo veduto nel giorno antecedente il Monte Capitolino, ricominciarono la loro gita dal Monte Palatino. Il Palazzo dei Cesari, chiamato il Palazzo d'Oro, lo occupava interamente. Questo monte non offre al presente che i rottami di questo palazzo. Augusto, Tiberio, Caligola e Nerone ne hanno edificati i quattro fianchi e alcune pietre, ricoperte di feconde piante, sono tutto ciò che ci rimane oggigiorno. La natura ha ripreso il suo impero sulle fatiche degli uomini e la bellezza dei fiori ci consola della rovina del palazzo. Il lusso nel tempo dei re e della Repubblica consisteva solamente nei pubblici edifici. Le case dei particolari erano piccolissime e semplicissime. Cicerone, Ortensio, i Gracchi abitavano sul Monte Palatino, che bastò appena nella decadenza di Roma per la dimora di un solo uomo. Negli ultimi secoli la nazione non fu altro che anonima moltitudine, indicata soltanto dall'era del suo padrone. Si cercano invano in questi luoghi i due lauri, i due allori piantati innanzi alla porta di Augusto, il lauro della guerra e quello delle belle arti coltivato dalla pace. Tutti e due sono spariti. Vi rimane ancora sul Monte Palatino alcune stanze dei bagni di Livia. Vi si mostra il posto delle pietre preziose che si intarsiavano allora in copia nelle volte come un ornamento ordinario e vi si vedono ancora pitture perfettamente intatte. La fragilità medesima dei colori accresce lo stupore di vederle conservate e avvicina a noi i tempi decorsi. Se è vero che Livia abbreviò i giorni di Augusto, concepì cotale attentato in una di queste stanze e gli sguardi del sovrano del mondo, tradito in mezzo alle sue più intime affezioni, si sono forse fissati su qualcuno di quei quadri di cui sussistono ancora i fiori avvenenti. Che pensò egli nella sua vecchiezza della vita e delle sue pompe? Si rammentò egli le sue proscrizioni o la sua gloria? Temette forse e sperò un mondo a venire? E l'ultimo pensiero che palesa tutto all'uomo, l'ultimo pensiero di un padrone dell'universo, va errando ancora sotto queste volte? Il Monte Aventino ci presenta più di ogni altro le vestigia dei primitivi tempi della storia romana. Precisamente in faccia al palazzo costruito da Tiberio si vedono gli avanzi rovinosi del Tempio della Libertà, edificato dal padre dei Gracchi. Alle falde del Monte Aventino si alzava il tempio dedicato da Servio Tullio alla fortuna virile per ringraziare gli dei di essere divenuto re di schiavo che era. Fuori delle mura di Roma si trovano pure le reliquie di un tempio che fu consacrato alla fortuna muliebre, allorché Vetturia trattenne Coriolano. Di rimpetto, appunto, al Monte Aventino si erge il Monte Gianicolo, su cui Porsenna dispose la sua armata. In faccia a questo monte, Orazio Coclite fece tagliare dietro a sé il ponte che conduceva a Roma. I fondamenti di questo ponte sussistono ancora. Vi è sulla sponda del fiume un arco trionfale fabbricato di mattoni, tanto semplice quanto era grande l'azione che ricorda. Quest'arco fu innalzato, si dice, in onore di Orazio Coclite. In mezzo al Tevere si scorgeva un'isoletta formata dai covoni di grano raccolti nei campi di Tarquinio e che furono per lungo tempo gettati nel fiume perché il popolo romano non voleva approfittarne, credendo che fosse loro attaccato cattivo destino. Si durerebbe fatica ai giorni nostri a far cadere su ricchezze di qualunque specie tanto efficaci maledizioni perché nessuno acconsentisse a impossessarsene. E fu nell'Aventino che si edificarono i templi del pudore patrizio e del pudore plebeo. A piedi di questo monte si vede il Tempio di Vesta, che sussiste tuttavia quasi intero, benché le inondazioni del Tevere l'abbiano sovente minacciato. Non lungi di là si trovano i resti di una prigione per i debitori. E fu pure in quello stesso luogo che Clelia e le sue compagne prigioniere di Porsenna attraversarono il Tevere per riunirsi ai Romani. Il Monte Aventino consola l'anima di tutte le rimembranze penose che risvegliano le altre colline e il suo aspetto è bello come le ricordanze che accenna. Si era dato il nome di Bella Riva, Pulcrum Litus, alle sponde del fiume che sono alle falde di questo colle. Qui passeggiavano gli oratori di Roma usciti dal foro, qui si incontravano Cesare e Pompeo come semplici cittadini e cercavano di cattivarsi Cicerone, la cui indipendente eloquenza premeva loro più della possanza medesima delle loro armate. Anche la poesia viene ad abbellire questo soggiorno. Virgilio ha situato sul Monte Aventino la caverna di Cacco e i romani, così grandi per la loro storia, lo sono anche per le finzioni eroiche, di cui i poeti hanno adornato la loro origine favolosa. Finalmente, nel ritornare dal Monte Aventino, videro la casa di Nicola Rienzi, che tentò vanamente di far rivivere i tempi antichi nei tempi moderni. Ecco, tale memoria, per quanto sia debole accanto alle altre, dà materia essa pure a pensare a lungo tempo. Il Monte Celio è notevole perché vi si vedono gli avanzi del campo dei pretoriani e di quello dei soldati stranieri. Tra le rovine dell'edificio costruito per ricevervi questi soldati si trovò l'iscrizione al genio santo dei campi stranieri. Santo effettivamente per coloro dei quali sostenevano il potere. Ciò che rimane di questi antichi quartieri fa giudicare che si erano fabbricati alla foggia dei chiostri, o piuttosto che i chiostri sono stati edificati sul loro modello. Il monte Esquilino era chiamato il Monte dei Poeti, perché vi aveva mecenate il suo palazzo su questa collina, e Orazio pure, e Properzio e Tibullio vi avevano la loro abitazione. In poca distanza di là vi sono i residui delle terme di Tito e di Traiano. Si crede che Raffaello pigliasse il modello dei suoi arabeschi nelle pitture a fresco delle Terme di Tito. Qui pure si è scoperto il gruppo di Laocoonte. La freschezza dell'acqua somministra tale sentimento di piaceri nei paesi caldi che si dilettavano di riunire tutte le pompe del lusso e tutti i godimenti della immaginazione nei luoghi dove si bagnavano. I romani vi facevano esporre i capolavori della pittura e della scultura. Li consideravano al chiarore delle lampade, poiché sembra dalla costruzione di queste fabbriche che non vi penetrasse il giorno mai e che si volessero preservare in tal guisa dai raggi del sole tanto pungenti del mezzogiorno. E a motivo, senza dubbio, della sensazione che si producono, che gli antichi li hanno chiamati dardi di Apollo. Si potrebbe concludere, nell'osservare le grandissime precauzioni prese dagli antichi per difendersi dal caldo, che il clima fosse allora più cocente di quello che sia ai giorni nostri. Nelle terme di Caracalla erano collocati l'Ercole Farnese, la Flora e il gruppo di Dirce. Vicino a Ostia si è trovato nei bagni di Nerone l'Apollo di Belvedere. Possiamo noi immaginarci che nel guardare così nobile figura non abbia mai risentito Nerone qualche sentimento generoso? Le terme e i circhi sono i soli generi di edifici consacrati ai pubblici divertimenti e dei quali siano rimaste in Roma alcune vestigia. Non è altro teatro fuori di quello di Marcello, le cui rovine sussistano ancora. Plinio racconta che si sono vedute 360 colonne di marmo e 3.000 statue in un teatro che non doveva durare che pochi giorni. Una volta i romani innalzavano così solidi edifici che resistevano ai terremoti. Un'altra si dilettavano di consacrare immensi lavori a fabbriche che distruggevano essi medesimi appena finite le feste. Essi scherzavano in tal modo col tempo in tutti gli aspetti. I romani d'altronde non avevano, come i greci, la passione delle rappresentanze drammatiche. Le belle arti non fiorirono a Roma che con le arti e con gli artifici della Grecia, e la grandezza romana si esprimeva piuttosto con la magnificenza colossale dell'architettura che coi capolavori dell'immaginazione. Questo lusso gigantesco, queste meraviglie della ricchezza, hanno gran carattere di dignità. Non era più quello della libertà, ma era sempre quello della potenza. I monumenti consacrati ai bagni pubblici si chiamavano province, vi si riunivano le diverse produzioni e i diversi stabilimenti che potevano rinvenirsi in un intero paese. Il circo, chiamato Circo Massimo, di cui si vedono ancora i residui, era così vicino al Palazzo dei Cesari che Nerone poteva dare dalle finestre il segnale dei giochi. E il circo era abbastanza grande per contenere 300.000 persone, quasi tutta intera la nazione era ricreata nello stesso istante. Con tali feste immense potevano essere considerate come una sorta di istituzione popolare che riuniva insieme tutti gli uomini per mezzo del piacere, come si riunivano altre volte per l'amore della gloria. Il Monte Quirinale e il Monte Vimiale sono così d'accosto che è difficile distinguerli. In questo sito esisteva la casa di Sallustio e di Pompeo e in questo medesimo sito ha fissato presentemente il Papa il suo soggiorno. Non si può fare un passo in Roma senza ravvicinarsi ravvicinare il presente col passato e i differenti passati tra loro, ma si impara a tranquillizzarsi sugli avvenimenti del suo tempo nel vedere l'eterna mobilità della storia degli uomini e si ha come una specie di vergogna nell'agitarsi alla presenza di tanti secoli che tutti hanno rovesciato le opere dei loro predecessori. Allato ai sette colli o sul loro declivio o sulla loro vetta si vede alzarsi moltitudine di campanili, obelischi, la colonna Traiana, la colonna Antonina, la Torre dei Conti, dove si pretende che Nerone contemplasse l'incendio di Roma, e la cupola di San Pietro che domina anche su tutto. Rientrando in Roma, Corinna fece passare Osvaldo sotto il portico di Ottavia, di quella donna che ha tanto amato e tanto sofferto. Attraversarono quindi la via scellerata per la quale passò l'infame Tullia che fece calpestare dai suoi cavalli il corpo del padre. Si scorge di qui in lontananza il tempio innalzato da Agrippina in onore di Claudio che la fece avvelenare e si passa finalmente davanti alla tomba di Augusto, il cui recinto interno serve attualmente di arena per i combattimenti degli animali. «Io vi ho fatto viaggiare molto rapidamente», disse Corinna a Lord Nelville, «sopra alcune tracce della storia antica, ma voi comprenderete il piacere che può trovarsi in queste ricerche erudite insieme e poetiche che parlano all'immaginazione ugualmente che al pensiero. Vi sono in Roma molti uomini distinti la cui sola occupazione è quella di scoprire un nuovo rapporto tra la storia e le rovine. Io non conosco alcun altro studio che si potesse accattivare di più il mio interesse», rispose Lord Nelville, «se mi sentissi abbastanza di quiete per abbracciarlo. Questo genere di erudizione è molto più animato di quello che si acquista sui libri. Si direbbe che si fa rivivere quel che si scopre e che il passato emerge dalla polvere che lo ha seppellito». «Senza dubbio», replicò Corinna, «e non è un vano pregiudizio somigliante passione per i tempi antichi. Noi viviamo in un secolo in cui l'interesse personale sembra il solo principio di tutte le azioni degli uomini. E qual simpatia, quale emozione, quale entusiasmo potrebbero essere mai il risultato dell'interesse personale? È più dolce il meditare su quei giorni di dipendenza, di sacrifici e di eroismo che sono passati e dei quali tuttora porta la terra degli onorevoli segni».